Radio 24 Reportage. Quei rifiuti tra di noi, di Laura Bettini. Come ben ha chiarito la Commissione europea, che ha aperto la procedura di infrazione giustamente contro l'Italia, abbiamo troppe discariche. E le discariche sono soprattutto in alcune regioni del nostro paese dove, per motivazioni varie, si è rifiutato da un lato di procedere in modo serio alla raccolta differenziata e dall'altro al recupero energetico dei rifiuti. La Commissione europea ci dice, e la direttiva europea ce lo dice da molti anni, che le linee di gestione dei rifiuti sono raccolta differenziata, recupero dei rifiuti e poi recupero energetico, cioè utilizzazione della frazione che resta dalla raccolta differenziata come materia prima secondaria per produrre energia. I primi erano manifestanti contro l'apertura di una discarica, il secondo il ministro dell'ambiente Corrado Clini, tutti dalla stessa parte, basta discariche, sia differenziata, recupero, riciclo e alla fine trasformazione in energia della frazione non recuperabile. Fa un po' specie, ma il ministro dà anche ragione alla procedura di infrazione aperta dall'UE contro l'Italia per il mancato rispetto di parte della direttiva europea del 1999 sulle discariche di rifiuti. Del resto però l'Europa non fa che ricordarci che avevamo preso un impegno anni fa e che non l'abbiamo mantenuto, sottolinea Manuela Algeri, direzione generale ambiente presso la rappresentanza italiana della Commissione europea. La Commissione lancia delle procedure di infrazione contro l'Italia come contro gli altri Stati membri nel momento in cui ha evidenze che obblighi sostanziali a cui un determinato Stato membro doveva ottemperare non sono stati ottemperati, non si è rispettata una serie di parametri entro il periodo che la normativa comunitaria concede per ottemperare a quegli obiettivi. Quindi cosa ha verificato la Commissione sulla base dei nostri stessi rapporti a Bruxelles? Che esistono ancora almeno 102 discariche, di cui 3 di rifiuti pericolosi non conformi alla direttiva del 99, in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna e Umbria. Discariche che non sono state chiuse come avrebbero dovuto o che non sono conformi alla direttiva. Il comitato Rifiuti Zero di Riano è sceso in strada per manifestare il suo scontento contro l'ordinanza regionale che ha individuato come siti di discarica, in sostituzione di Malagrotta, Pian dell'Olmo e Quadro Alto. I rifiuti costituiscono una buona fetta delle preoccupazioni della Commissione che in questi giorni, con una comunicazione agli Stati membri per il miglioramento dell'applicazione della legislazione ambientale, ha iniziato il suo processo di coordinamento e dialogo in vista della stesura del 7° programma d'azione per l'ambiente, un programma decennale. Ancora Manuela Algeri. Ci si interroga su cosa si può fare a livello europeo che possa aiutare tutti gli Stati membri a garantire ai propri cittadini uno stesso livello di protezione ambientale e quindi di benessere, perché non dimentichiamo che la protezione ambientale poi ha ricadute sia sull'economia sia sulla salute dei cittadini. Quindi. Tra l'altro ci sono delle indicazioni specifiche, degli esempi ecco su questi temi. Sì, ma gli studi che la Commissione ha commissionato, diciamo fra le varie cifre, indicano 50 miliardi di euro l'anno tra sanità e costi diretti per l'ambiente, i costi della mancata applicazione della normativa ambientale. Quindi sono 50 miliardi di euro l'anno che vengono spesi, diciamo sprecati, e magari potrebbero essere invece, con un po' più di prevenzione, un po' più di azione preventiva e corretta applicazione a monte, potrebbero essere impiegati per altre cose. Un altro esempio, una corretta applicazione delle norme sulla gestione dei rifiuti, oltre a permettere, secondo appunto i calcoli imposti dalla Commissione, la creazione di 400.000 posti di lavoro, che in momenti di crisi non è assolutamente poco, farebbero anche risparmiare soldi proprio nelle spese per la gestione dei rifiuti, cioè si calcola una settantina di miliardi di euro in meno di una gestione corretta dei rifiuti rispetto a una gestione appunto non conforme alle norme europee, una gestione sempre in emergenza, una gestione che è sempre a risolvere problemi ormai già verificatisi anziché prevenirli. Quanta gioia, quanta monnessa, monnessa che ride. La vera green economy si farebbe intervenendo seriamente su questi punti, ma anche su altri, dice Stefano Maglia, che è docente di legislazione ambientale presso la Facoltà di Scienze Ambientali dell'Università di Parma. In particolare, si dovrebbe intervenire sul piano normativo e della burocrazia, e non solo in Italia. La green economy non si risolve semplicemente dando dei soldi all'industria automobilistica perché finalmente forse si mettono d'impegno a fare le automobili che inquinano di meno. Significa anche sburocratizzare un sistema che inchioda le aziende che vogliono fare in un sistema che è assolutamente bloccato. Oppure un'altra cosa che io lo dico da persona che si occupa di questa materia da parecchi anni e chi si occupa per esempio di gestione dei rifiuti lo sa, ci sono dei punti chiave all'interno della stessa direttiva sui rifiuti che viene citata espressamente, l'unica direttiva che viene espressamente citata all'interno della comunicazione, per esempio, che dice abbiamo delle definizioni, tipo la definizione di trattamento, che tutti sanno che c'è, nessuno sa cosa vuol dire. Per cui succede che io sono un'azienda, voglio fare una determinata attività di un certo tipo su uno scarto, su un rifiuto, su quello che adesso viene chiamato anche sottoprodotto, sulla preparazione per l'utilizzo, e dall'altra parte non abbiamo una pubblica amministrazione che, non dico che è all'altezza, però che si assumersi anche la responsabilità di capire, di chiarire bene che cosa stia succedendo. Quindi quando la comunità europea ci dice investiamo anche in nuove possibilità di investimenti, di organizzazione delle amministrazioni, le amministrazioni sono pronte? Bisogna quindi anche muoversi per attrarre maggiormente i giovani, le aziende, lo stesso sistema economico che si muove attorno alla questione ambiente a trovare essere attrattivo, incentivi, meno burocrazia, più chiarezza, più disponibilità. Ecco, questo secondo me muoverebbe un settore incredibile, voglio dire, perché per esempio i rifiuti non sono soltanto un problema, ma possono diventare sicuramente anche una risorsa. Quanta gioia, quanta bonnessa. Accanto loro le amministrazioni sanno di doversi sveltire, sburocratizzare, diventare più vispe e attente, e lo ammette Filippo Bernocchi, responsabile energia e rifiuti dell'Associazione dei Comuni Italiani, che lancia però il suo appello al governo. Oggi noi abbiamo uno scenario abbastanza complesso, soprattutto complesso dal punto di vista normativo, perché abbiamo centri decisionali che hanno tempi di programmazione diversa e soprattutto momenti autorizzativi che sono assai complessi. A monte di questo ci dovrebbe essere una programmazione nazionale, regionale, provinciale e comunale che, se io immaginassi ad esempio la regione Toscana, un tempo medio per arrivare in fondo a un processo del genere sono 10-12 anni. E siccome noi dobbiamo adeguare i nostri strumenti di programmazione ai nuovi obiettivi che ha dato la direttiva europea, cioè quello del 50% di riciclo e riutilizzo, noi abbiamo bisogno di rivedere questi strumenti, perché questi strumenti sono vecchi, non rispondono più alle nuove esigenze ambientali e soprattutto non, in alcuni casi non fanno neanche bene all'ambiente. E quindi questo è il primo problema. Poi c'è un altro problema, il sistema industriale. Oggi in molte regioni mancano delle piattaforme di trattamento del rifiuto perché la parte industriale non ha investito in questo settore, quindi la seconda gamba. La terza, una base normativa che sia più chiara possibile, perché oggi, guardi, con le due riforme federaliste sono state fatte, sicuramente ci sono state cose buone, per quanto riguarda l'ambiente si è fatto un disastro. E se il legislatore non approfitta di questo governo tecnico per poterci porre mano, io credo sarà un disastro. Insomma, il governo tecnico strapperà anche qui gli applausi di Bruxelles? Vedremo. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.